Carissimi amici, vorrei augurarvi un Shabbat Shalom e un Chag Sameach in occasione della festa di Shavuot. Forse alcuni non sanno ancora che Shavuot è anche il giorno della ricorrenza della scomparsa di uno dei grandi del nostro popolo. Chi è questa persona? Non è altro che il re Davide, David HaMelech. David HaMelech, vedete il titolo di questa brevissima lezione, questo breve saluto, il titolo è Figlio di chi sei? Abbiamo l'usanza di cercare di capire chi sono le persone, chiedendo di chi sono figli, e cercare di capire qual è la loro famiglia, chi sono, eccetera. La domanda è se è giusto questo, la domanda è se bisogna guardare figlio di chi sei o bisogna guardare chi è la persona. E appunto parlavo di David HaMelech, il re Davide. Il re Davide ha una storia molto molto sofferta nella sua gioventù e nella sua infanzia. Ora non ho il tempo, non abbiamo tutti il tempo, vigilia di Shabbat e Moed, di entrare in maniera approfondita nella storia, ma David HaMelech da piccolo era quasi cacciato via dalla famiglia, era considerato da quasi tutti un figlio illegittimo ed ha subito moltissime sofferenze e difficoltà. Nel momento in cui il profeta Samuel, ha avuto l'indicazione profetica di andare a dichiarare, a nominare, a ungere come si usava, ungere il nuovo re tra i figli di Yishai, che era il nome del papà di David HaMelech. Nessuno immaginava per un momento che il figlio da ungere, da nominare quale re di Israele, sarebbe stato quello lì che non hanno neanche chiamato nel momento in cui è venuto Shemuel a trovare i figli di Yishai, perché andavano per scontato che non sarebbe stato lui. Invece, a grande sorpresa di tutti, era proprio lui. Era qualcuno che nessuno apprezzava le sue capacità, la sua grandezza spirituale e così via. Di conseguenza, a parte che bisogna aggiungere, quando diciamo figlio di chi sei, di chi, figlio di chi era David HaMelech, questa grandissima figura della nostra storia, che sarà poi colui che sarà l'antenato del Mashiach, del Messia, il suo antenato era Ruth. Ruth era una convertita del popolo moabita. Quindi le sue origini erano non necessariamente quelle che uno direbbe perfette, chiare, eccetera. E tuttavia, questo non ha la vera importanza. Il fatto che l'anniversario del re David capiti di Shavuot, sicuramente nulla è a caso, anche se noi non sappiamo le motivazioni esatte, ovviamente volute dal divino, però possiamo e dobbiamo sicuramente trarre qualche lezione. E quindi, da una parte, ognuno di noi è contento sicuramente di sapere che ciò che conta non è tanto figlio di chi è, non è tanto quali sono le origini, non è tanto come viene visto dagli altri, ma HaKadosh Baruch Hu guarda direttamente il cuore di ognuno di noi. Nessuno ci può quindi davvero giudicare in questo senso, e quindi è un messaggio con il quale ognuno di noi potrebbe essere molto contento. E dire bene, sono contento che se anche qualcuno pensa così, qualcuno pensa cosà, anche se le origini sono così o sono cosà, non cambia nulla. L'importante è dove sta il mio cuore, come è il mio comportamento e chi lo giudica è solo l'unico giudice vero. E fino a qui è tutto molto bello. Però il discorso credo diventi un pochino più complesso nel momento in cui siamo noi a giudicare qualcun altro. Qualora si tratta di essere giudicati dagli altri, allora questa lezione è molto carina. Ci dice, vabbè, Non ci importa niente come ci giudicano gli altri, perché è Kadosh Baruch Hu che alla fine giudica davvero molto bene. Però il discorso è molto importante, forse ancora più importante all'inverso, al contrario. Tu come giudichi qualcun altro? O tu perché giudichi qualcun altro? E qui già molti di noi, spesso senza intenzioni negative, come dire, non per cattiveria, però proprio per istinto, per natura umana, cadiamo in questa trappola. Cadiamo nella trappola di giudicare l'altro, di fare paragoni. Io ho fatto questo percorso, allora come si permette quest'altra persona di credere così o cos'ha e così via? Questo è un grande errore. Perché così come ognuno di noi non vuole essere giudicato dagli altri, vuole essere giudicato solo da Kadosh Baruch Hu, anche ognuno degli altri non deve essere giudicato da noi. Noi non siamo nessuno per fare paragoni tra una persona e l'altra, tra il percorso di una persona e l'altra, tra le tappe raggiunte da una persona o un'altra e così via. Noi dobbiamo ringraziare a Kadosh Baruch Hu che lui guarda il nostro cuore e dobbiamo guardare dentro noi stessi, non dentro il cuore degli altri. Spesso, molto troppo spesso ci troviamo a giudicare cosa intendeva questo quando ha detto quello e cosa intendeva quando si è comportato in questa maniera. Sicuramente gli interessi erano questi, sicuramente il pensiero era quello e così via. E sappiamo tutti come si parla. A parte che questa cosa è vietata dalla Torah, rientra nel divieto di Lashon Hara, rientra nel divieto di Rechilut, di parlare, di dire pettegolezze. Per la Torah questi discorsi sono proprio vietati. Allora significa che chi fa questi discorsi inciampa in un peccato, in una averà, una cosa vietata. Ma è molto facile caderci dentro in questa trappola, quindi bisogna prenderne atto, bisogna diventare un po' più, mettersi in sintonia con queste finezze, che ciò che non vogliamo sia fatto a noi non dobbiamo fare a qualcun altro. È uno slogan, è molto facile dirlo, lo ripetiamo tutti, ma poi nel momento non ci rendiamo conto spesso che è esattamente quello che stiamo facendo. Allora prendiamo lezione da David HaMelech, dalla storia di David HaMelech, ma soprattutto facciamo questo perché a Shavuot dobbiamo ricevere la Torah. A Shavuot dobbiamo riconfermare la nostra accettazione della Torah, dei 10 comandamenti, della Aseret HaDibrot e di tutta la Torah. Allora bisogna ricordare, Derech Eretz Kadma la Torah, cioè il comportamento corretto tra le persone è qualcosa che deve precedere la Torah. Significa la Mishnah, e questa era una citazione dalla Mishnah del trattato di Avot, la Mishnah ci sta insegnando che ciò che tu impari nella Torah non è valido se prima non rispetti un'altra persona. Se prima non applichi ad un'altra persona quello che vuoi sia applicato a te. Allora la tua Torah è una Torah umile. Allora la tua Torah è un legame con HaKadosh Baruch Hu. Ma se la tua Torah non è preceduta da questa umiltà, da questo prendere atto della validità dell'altro, allora non è una Torah di HaKadosh Baruch Hu, purtroppo. Allora è una Torah distinta, distaccata, divorziata dalla sua fonte. È qualcosa di terreno, non è più qualcosa di celeste. Invece, qualora la persona si mette da parte, sottomette il proprio io per innalzare quello degli altri, allora Derech Eretz, allora c'è anche la Torah. Prendiamo atto di questo messaggio molto molto importante, perché il dono della Torah dipende dall'unione, dall'unità tra gli ebrei. Ahavat Israel, l'amore tra gli ebrei, è una condizione una precondizione per poter essere degni di ricevere la Torah. E vi auguro quindi un grandissimo augurio di Shabbat Shalom e di Chag Sameach di poter ognuno rispettare l'altro, anche qualora non dovesse avere proprio alcuna possibilità di capirlo. Non fa niente, non è tuo compito capire l'altro, il tuo compito è di rispettarlo. Giudicarlo sicuramente non è il tuo compito, è il compito di HaKadosh Baruch Hu. E quindi rispetta l'altro per quello che è. Non credere di fare una mitzvah facendo un peccato di lashon hara, di maldicenza, o di pensare male di un altro, o di in qualche maniera esprimersi in maniera non carina nei confronti di un altro o direttamente verso un altro. Tutto ciò è un peccato, tutto ciò è una avera. Allora, che validità ha la tua grandezza spirituale se ottenuta anche attraverso delle averot? Ecco perché la Torah dice: Derech Eretz, dice la Mishnah, Kadma la Torah. Prima anticipa il buon comportamento e poi la tua Torah sarà una vera Torah e la tua Tefilah sarà una vera Tefilah. Allora auguro questo a tutti noi, anche a me stesso, che potessimo tutti noi migliorare in questo ambito e di conseguenza questa è la porta per migliorare in tutti gli altri ambiti della vita. Una grande Berachah a tutti quanti.